di diversi colori e anche nere, corvine. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. E in egual modo anche gli uomini, gli animali e le greggi hanno anch'essi colori diversi. Tra i servi di Allah, solo i sapienti lo temono. Allah è il potente, il perdonatore. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. In verità, coloro che recitano il libro di Allah assolvono all'orazione e segretamente in pubblico danno di ciò che abbiamo loro concesso, sperano in un commercio imperituro. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur. E che Allah li ricompensi pienamente e aggiunga della sua grazia. Sì, egli è perdonatore, riconoscente. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. Ciò che ti abbiamo rivelato del libro è la verità, conferma di ciò che era prima di esso. In verità Allah è ben informato sui suoi servi, è colui che vede con chiarezza. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Facemmo poi eredi della scrittura i nostri servi che scegliemmo. Fra essi c'è chi fa torto a se stesso, chi segue una via intermedia, chi vince la gara del bene con il permesso di Allah. Questa è la grazia immensa. Jannatu adni yadkhulunaha yuhalluna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Entreranno nei giardini di Eden, ornati di bracciali d'oro e di perle, e saranno di sete i loro vestiti. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. Diranno: sia lodato Allah che ha allontanato da noi la tristezza. In verità il nostro Signore è perdonatore, riconoscente. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. È colui che ci ha introdotti per grazia sua nella dimora della quiete, in cui non ci affliggerà nessuna fatica o stanchezza.